tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. La stampa tedesca celebra il trionfo torinese del Bayern, la più grande vittoria di Van Gaal, titola a tutta pagina Bild, il tabloid più popolare, il colpo della liberazione del Bayern, secondo il Frankfurter Allmagne, frustata inaudita, serata storica, eccetera eccetera. Insomma, questi sono grosso modo gli aggettivi usati dai tedeschi. Ovviamente sono di segno opposto quelli che campeggiano sui giornali di casa nostra. Distrutti e umiliati, comincia così sulla stampa di stamane il commento di Roberto Beccantini. Roberto, buongiorno. Buon pomeriggio, Gigi. Senti, la scorsa settimana uno spiritoso ascoltatore juventino, se non ricordo male era bergamasco, mi ha detto che sentire me parlare di Juventus è un po' per lui come andare dal dentista. Ora, dato che tu sei il buon medico di famiglia, io ti ho convocato al capezzale di questa illustre inferma per, direi nell'ordine, come si usava una volta con i medici di famiglia, diagnosi e prognosi, partendo ovviamente dalla diagnosi. Il problema è che la Juventus è il dente adesso, hai capito? Se noi siamo i dentisti, quindi cavolacci suoi, la diagnosi è paradossalmente, Gigi, nulla di nuovo. Io mi ero permesso di scrivere in sede di presentazione: guai a illudersi per il successo contro l'Inter, sì, frutto di una discesa in campo degli attributi finalmente e di episodi. L'Inter aveva giocato, fra parentesi, molto male, contribuendo al successo della Juve. Guai a illudersi. Seconda cosa della quale temevo molto: quando gli italiani possono scegliere fra due risultati. Vero, e vero. Quindi anche questo ha incartato la squadra. E non c'è stata partita, penso che i tedeschi avessero faticato molto di più a conquistare i Sudeti, che pure conquistarono in 10 minuti, perché non c'è stata veramente partita. La prognosi: quando si ha un allenatore così alle prime armi, la logica suggerisse di mettergli sopra un personaggio carismatico di competenza specifica. La Juventus penso che sia l'unica società di Serie A e di Serie B e forse al mondo a non avere, tranne l'allenatore e un giovane come Alessio Secco, a non avere nessuno nell'organigramma che sa di calcio. E questo mi fa pensare alla difficoltà della terapia, perché se è vero che è stato prenotato Lippi con incarichi diversi da quello di allenatore per il dopo mondiale, coprire questo periodo sarà molto difficile, perché chiaramente nessuno vorrà venire alla Juventus per fare la baglia di Lippi, per tenergli il posto in caldo. Certo. Blanc doveva pensarci. Come prima raffica di diagnosi e poi prognosi, direi che sono già molto significative. Senti, io torno alla diagnosi e provo a sottoporti due o tre punti. Uno, la scarsa organizzazione di gioco, e questa l'abbiamo vista. Due, che mi ha molto colpito in una partita così, che tra l'altro si era messa così bene, no? Perché capisci subito fin dall'inizio che è una serata difficilissima, ti prendono un palo eccetera, vai in vantaggio e a quel punto, oltre alla poca organizzazione, alla mancanza di personalità e forse di un leader vero, ho visto una presunzione incredibile in uscita con lo specchio in mano, le grottaglie, colpi di tacco di Felipe Melo al limite dell'area. Ma come nasce una roba del genere? Guarda, la presunzione nasce appunto dal fatto che mancano leader fra i dirigenti, in panchina perché Ferrara è un esordiente assoluto, e in campo, laddove una volta c'era il Del Piero giovane, e l'attuale laddove adesso c'è magari chi potrebbe farlo, ma è difficile che lo possa fare per la sua posizione geografica, cioè Gigi Buffon è il portiere, certo, molto lontano dall'azione. Per quanto riguarda i tacchi di Felipe Melo, sai, qui siamo veramente in una patologia, visto che la stiamo mettendo in termini clinici. Siamo di fronte a un caso tanto incredibile che è diventato ordinario. Già a Palermo, magari non di tacco, spianò la strada al primo gol di Cavani. 25 milioni, secondo me, sono assolutamente stati buttati via. E questa presunzione, secondo me, nasce e dalla mancanza di un'organizzazione di gioco, come sottolineavi, e dal fatto che è in questo momento una squadra senza leader in campo e fuori, che o gioca di carattere, d'orgoglio, di cuore, ma come ha fatto sabato, come esatto, ha fatto sabato contro un avversario come quello di sabato, oppure no, pur giocando in casa, pur avendo 2 risultati su 3 a favore, pur non giocando contro l'Everest, si ritrova in queste situazioni e viene assolutamente annientato. Ho visto a metà primo tempo, in 2 o 3 circostanze in cui è stato inquadrato un po' in primo piano, dopo parate o respinte, tra l'altro, ho visto proprio gli occhi sbarrati di Buffon. E questo non per dire che non sia leader, intendiamoci, ma per dire che aveva capito come sarebbe andata a finire. Senti, non è che, giusto per trovare un paio di attenuanti che oggettivamente ci sono, non è che il leader di questa Juventus in questo momento è Chiellini. Magari con l'aiuto di Sissoko, ripeto, poi non è un alibi quello delle assenze, però io per come si rende utile combatte, per come va in area avversaria, per come, cioè, mi sembra che forse, io credo che se il leader di una squadra è Chiellini non siamo al massimo, no, di una squadra che deve vincere, però forse, sai, diciamo che oggi come oggi Chiellini è il miglior difensore della Juventus, è uno dei migliori difensori in Italia e non solo. Sì. La grinta del leader, mi ricordo, se io dovessi dargli un'etichetta, sai, quelle che piacciono o non piacciono, fanno discutere gli ascoltatori, direi che è l'Ibrahimovic dei difensori, sì, con questi gomiti sempre molto alti, sì, molto, con questa sua grande foga, ma anche con questo suo grande senso della posizione, certo, e fatte le debite proporzioni del gol, Gigi, perché certo, uno che li fa. No. Quindi è chiaro che l'assenza di Chiellini si è sentita, ma se i migliori sono sempre gli assenti o i leader addirittura, poveri noi. Sissoko è un altro dei grandi misteri di questa Juventus, non equiparabile ad Andrade, ma ne ha sempre una, insomma, l'effetto Obama è finito, devo dedurre, perché ne ha sempre una. Ti ricordi l'anno scorso quando dribblò tutta Palermo? Adesso invece o un affaticamento muscolare o il piede. Sai, ed è in Italia, e sottolineo in Italia, perché come si è visto anche fra Milan e Zurigo, in Europa è tutta un'altra musica, la sua stazza da mediano più che la sua vita si, certo, fa sentire. Ho approfittato di questa breve pausa per selezionare alcuni messaggi che poi vi leggerò, ma prima vorrei approfittare ancora, nel senso migliore ovviamente, della presenza di Roberto Beccantini. Un anno fa, per Ranieri, quasi lapidato ormai a questo punto della stagione, gli stessi punti in campionato 30, ma con una differenza però: la Juventus qualificata in Coppa Campioni, tra l'altro con 2 vittorie sul Real Madrid. Tra le croci che venivano buttate su Ranieri c'erano quelle degli infortuni, tra l'altro, troppi guai, troppe cose, preparazione sbagliata, eccetera. In questo momento siamo, con la ricaduta di Sissoko, siamo a quota 34 infortuni. È possibile che Ranieri, come dire, venga rivalutato, Roberto? Io direi proprio di sì, deve essere rivalutato, non credo che si possa parlare solo di una possibilità. Chi non ha il parocchio, chi non è in malafede, deve rivalutare il lavoro di Claudio Ranieri, che io faccio, secondo me, ho iscritto alla tribù dei seminatori e non dei raccoglitori, sì, perché dovunque è andato ha sempre preparato la pappa, come si suol dire, certo, al successore. Pensiamo soprattutto al caso del Chelsea, nel quale il successore era appunto José Mourinho. Però Ranieri è un allenatore che sa il fatto suo, e come sottolineavi, l'anno scorso aveva fatto, anche lui non è un grande procuratore di gioco, però, insomma, con la squadra che aveva, tranne il crollo della primavera, che con i suoi errori si era comportato più che dignitosamente. Per quanto riguarda gli infortuni, è dimostrato che bisogna anche lì chiedergli scusa, perché avevamo demonizzato il suo staff di stregoni, di apprendisti stregoni, ma anche questi di cagliostri non stanno facendo certo meglio. E credo che per concludere questa conversazione, insomma, ci si debba sforzare, no? di guardare il bicchiere mezzo pieno. Ora è vero che c'è una bottiglia vuota, anzi una damigiana vuota, che era la coppa, però insomma sto bicchiere mezzo pieno dopo sabato sera esiste, perché essere tornati a 5 punti significa comunque che il campionato è aperto, e mi pare che a questo punto della stagione alla Juventus non resti altro. Ma come si esce però da un contraccolpo brutale come quello di ieri sera? Si esce guardandosi in faccia, parlandosi senza ipocrisie, sperando che l'allenatore abbia ancora in pugno lo spogliatoio, E appunto, perché come sottolineavi, non è da Juventus dirlo, ma l'essere usciti dalla Champions, soprattutto se dentro vi resterà anche l'Inter oltre al Milan e la Fiorentina, potrebbe essere l'unico vantaggio. Roberto, grazie. Grazie a voi. Ho selezionato, come vi dicevo, alcuni messaggi arrivati nel frattempo, sono mail, sono sms. Per esempio Marco Traversi scrive: appunto di tattica, manca Sissoko, hai dimostrato comunque di essere più solido con tre mediani dietro a Diego. Perché diavolo gioca Camoranesi mezzo destro e non il sostituto più logico, cioè Paulsen, giocatore da rendimento migliore da agosto a oggi? Ti presenti con Del Piero, Trezeguet, Diego, Camoranesi, tutti noti per il lavoro in copertura e di recupero palla, ovviamente c'è ironia. Ha giocato la qualificazione e poi ti stupisci che non vedi mai la boccia. Quanta supponenza, caro Ciro, quanta supponenza. Luca Bianco da Torino scrive invece: una delle peggiori Juventus della stagione ha incontrato il miglior Bayern dell'anno e probabilmente avrebbe perso anche giocando bene. La Juve ha perso perché ha giocato male, ma soprattutto perché ha incontrato un Bayern simile al Barcellona. Dovrebbero capirlo quei 50 imbecilli che hanno contestato squadra e società al termine della partita. Chiari esponenti della filosofia noi vinciamo, voi perdete, gli stessi forse che hanno voluto e ottenuto lo scorso anno la testa di Ranieri e che intonano i loro cori bestiali contro Balotelli. La Juve non è questa gente, forza vecchia signora. Firmato Luca Bianco da Torino. Ce ne sono molti altri, ci sono altri messaggi anche su altri argomenti, mi piacerebbe sapere, scrive un ascoltatore, fino a quando i giornalisti italiani accetteranno di essere trattati nel modo in cui Mourinho li ha trattati ieri, ma anche molte altre volte, e altre amenità del genere. Cominciamo con gli interventi in diretta. Andrea da Cuneo, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, abbia pazienza. Una considerazione: ieri sera ero, ahimè, allo stadio Olimpico di Torino a vedere camminare il Bayern sulle mazzerie della Juventus e c'erano un po' di persone attorno a me molto pacate, anche perché c'è stato ancora qualche ululato nei confronti di persone che non erano presenti, sì, con la maglia nero-azzurra, sì, purtroppo, perché è veramente una vergogna. Detto questo, la situazione per la Juve secondo me è abbastanza grave, perché a parte che Del Piero fa tenerezza, ormai non ce l'ha più, probabilmente sarà che deve ancora recuperare dall'infortunio, sì, sarà l'età, però fa tenerezza. È un misto di quelle due cose, ho l'impressione. Esatto. Diego non ha capito ancora da che parte deve giocare, però alla fine è venuto fuori che cosa? Che probabilmente Ferrara è più simpatico che bravo, perché c'è stato proprio un attimo in cui diversi giocatori, Del Piero, Cannavaro, Diego stesso, Felipe Melo, si giravano verso la panchina a chiedergli: allora cosa dobbiamo fare? E penso che Ferrara non l'abbia ancora capito e difficilmente riuscirà a capirlo. Volevo sapere da lei appunto cosa ne pensa. Ma insomma, lei dal campo è ovvio che ha avuto altre sensazioni, più di intanto coglie questi particolari che per esempio la televisione non ha dato, ne ha dati altri. Dicevo prima a Becantini che io sono rimasto per esempio molto colpito dall'aria spaventata di Buffon, cioè da quegli occhi sbarrati che aveva nel primo tempo dopo due o tre parate, una molto bella, un paio magari anche imperfette, due respinte che potevano essere due palloni bloccati, ma insomma gli occhi sbarrati di Buffon la dicevano lunga. E sì, ho avuto l'impressione anch'io che non ci fosse davvero, fin dal momento in cui è stata scelta la squadra, come annotava prima un ascoltatore, Marco Traversi, che ha scritto, sia poi durante la gestione vera e propria della partita, che nessuno avesse le idee chiare, perché non secondo me non aveva molto senso la formazione di partenza. E in ogni caso, avendo avuto la botta di fortuna, ma proprio la botta di fortuna era andare in vantaggio, perché dopo il palo di Olic, dopo tre o quattro discese loro che già avevano fatto capire che partita sarebbe stata, andare in vantaggio sull'unica volta in cui ci provi in maniera avventurosa ma perfetta, perché il lancio di Marchisio era perfetto e perfetta è stata l'entrata di Trezeguet, cioè colpirli al primo tentativo vuol proprio dire che forse è la tua serata, no? Che forse nonostante gli altri nella circostanza siano messi meglio, più organizzati, più fuori, insomma, comunque a quel punto di gol te devo fare due. E invece da lì in avanti è cominciato quello che lei dice, cioè ogni tanto guardare la panchina, e quando non la guardavano uscivano palla al piede dall'area con lo specchio in mano come le grottaglie, oppure oppure toccavano di tacco come Felipe Melo, oppure come Diego nel secondo tempo, il disimpegno orizzontale nei pressi della propria area di rigore, cioè robe da Sant'Uffizio, robe da dilettanti, ma non certamente da Coppa Campione. Inspiegabile. Giuseppe, provincia di Messina, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Ascolti, io volevo venire lunedì pomeriggio, ma per tempi di lavoro non ho potuto fare. Sì. Per parlare della partita di Juventus-Inter, sì. Ieri sera comunque ho avuto la conferma della pochezza del calcio italiano in generale. Mm-hmm. Cioè, secondo me noi in Europa, come qualità di gioco, siamo al quinto o sesto posto europeo. E cosa ne pensa? E un'ultima cosa, fin quando la Juventus farà calcio mercato seguendo i consigli dei tifosi, tra virgolette, noi non andremo da nessuna parte, perché quando Stankovic era libero sul mercato i tifosi juventini la maggior parte non l'hanno voluto. Adesso noi ci teniamo Felipe Melo, che è corvino, a cui faccio i complimenti, ce l'ha. Le dirò che tra Corvino che ha mollato Melo per 25 milioni e quello del, come si chiama, il Werder Brema, che ne ha presi più o meno altrettanto per Diego, non so al momento chi dei due abbia le mani più arrossate a forza di fregarsene, no? Ho l'impressione. Le dirò di più, tra gli altri dati inquietanti, me ne ha fatto notare uno ieri sera, un amico juventino, che è questo: ma perché quando erano da noi Zanetti, si è domandato, Zanetti e Marchionni erano continuamente infortunati e adesso invece nella Fiorentina, salvo piccolissimi acciacchi ma comunque al momento trascurabili, hanno grande continuità di rendimento. E io ovviamente per infierire gli ho detto che non è ancora il peggio è che Felipe Melo non si infortuna mai, ma insomma queste sono battute, ma quella considerazione ovviamente ci stava. A proposito di quello, un ascoltatore scrive: ma Grosso e Cannavaro che senso ha avuto acquistarli? Se c'è una logica, Grosso e Cannavaro potrebbero essere due avamposti dell'arrivo di Lippi, no? Che anche prima Beccantini ci ha ricordato, in quanto sono due fedelissimi. Quindi insomma, alla Juve, diceva, secondo me giustamente, alla fine di tutto, Roberto Beccantini diceva, è l'unica grande società a livello europeo che non abbia un manager di vera competenza calcistica, l'ha detto un quarto d'ora fa, aggravato dal fatto che quello che avrebbe competenza calcistica attualmente si sta occupando d'altro e arriverà da qui ad alcuni mesi, avendo però nel frattempo seminato già un po' di, come dire, di ambasciatori, di staffettisti dal rendimento leggermente inquietante. Giorgio, provincia di Ascoli Piceno, buongiorno. Sì, buongiorno signor Ganzini, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Una considerazione già ha risposto in parte un po' alla mia domanda che voglio porle adesso. Non pensa che questa situazione della Juventus in questo momento sia dovuta al fatto un impegno che sta pagando per Lippi, per la prossima minuta di Lippi? L'acquisto, come ha detto lei prima, di Grosso e Cannavaro sono stati due acquisti sicuramente insensati per la politica juventina. E il fatto della cessione di Marchionni alla Fiorentina, il fatto che comunque alla Juventus non avrebbe trovato spazio, non avrebbe potuto giocare il mondiale insieme a Grosso, insieme a Cannavaro, e tutta una serie di considerazioni, anche Ferrara in panchina, comunque sia solo grazie a Lippi Ferrara in panchina, altrimenti non sarebbe mai potuto essere allenatore della Juventus. Grazie, l'ascolto a te. Grazie a lei. Io comincio a pensare che qualcosa ci sia da questo punto di vista, e che forse quel famoso pranzo, mi pare, no, della primavera scorsa tra Blanc e Lippi non fu nocivo solo perché i due si fecero scoprire, cosa che in genere in questi casi bisogna trovare il modo di evitare, ma forse anche perché poi ha un po' perché è scoperto, è diventato di dominio pubblico, e un po' forse proprio perché è inopportuno in assoluto. Certamente del bene al momento non ha fatto. Non ha fatto una gran figura neanche il Milan ieri sera, detto tra noi. Il fatto che poi si sia qualificato è tutt'altro discorso, ma si è qualificato grazie al Real Madrid, grazie a Ronaldo, non certamente per meriti suoi, e aver lasciato 4 punti su 6 allo Zurigo indubbiamente non è un grande segnale per il futuro. Quindi prima dell'intervallo sentiamo un attimo l'analisi di Leonardo. Questo fattore di giocare contro una squadra che teoricamente diciamo è più debole, però ci aveva anche battuto a San Siro, credo che anche per loro questo psicologico c'era, nel senso che sono riusciti a battere, l'idea era battere ancora, no? E quello sicuramente ci ha contato tanto, però non possiamo mai sottovalutare una qualificazione che è sempre una cosa molto difficile. Mezz'ora di processo alla squadra sul campo di Vinovo. Ciro Ferrara ha tenuto rapporti suoi dopo la disfatta di ieri, informa l'Ansa. I tifosi invece hanno disertato il campo di allenamento, dove c'era anche il direttore sportivo Alessio Secco, ma non rappresentanti della proprietà. Nel frattempo Buffon ha deciso di operarsi al menisco lunedì, dopo la partita Bari-Juventus in programma in questo fine settimana. Oh, stasera tocca all'Inter magari nel senso buono, e non in quello toccato alla Juventus, ma insomma in ogni caso stasera c'è l'Inter alle prese con una squadra straniera, con una squadra che ha caratteristiche completamente diverse dal Bayern, ma che comunque in un girone molto equilibrato ha fatto soffrire l'Inter all'andata, ha vinto a Barcellona e quindi insomma, così come se ha vinto a Barcellona è difficile che stasera l'Inter possa prepararsi a una serata tranquilla. Tranquillo certamente Mourinho lo è sempre di meno. Sentiamo questi due siparietti di ieri che qualcuno continua a dire che servono a, come dire, ad allontanare la pressione della squadra e ad accentrarla su di lui, però insomma, un po' la spiegazione comincia a stancare e un po', come dicevano una volta, c'è modo e modo di attuare questa eventuale, molto eventuale strategia. Mourinho sulla formazione. Formazione, voi siete tutti bravi a sapere la formazione prima della partita. Siete tutti bravi quando io faccio allenamento e voi potete vedere dai alberi o dai vostri informatori, voi siete tutti bravi. Questa volta neanche i miei assistenti stanno alla squadra, solo io. Voglio vedere se siete bravi a leggere la mia testa e a trovare la squadra che gioca domani. Non c'è dubbio che Mourinho si fidi dei suoi collaboratori, no? Si fida dei suoi assistenti, evidentemente si fida della società, si fida di tutti praticamente. Ha creato un habitat ideale ad Appiano Gentile e dintorni. Poi, già che c'era, ha pensato bene anche di prendersela con... ormai una gag che abbiamo già risentito anche ieri sera, anche stamane, ma io credo che valga la pena comunque sempre per dare un'idea di come sia il momento ambientale di sentire questa botta e risposta tra Mourinho e Sandro Mazzola. Chi fa nell'Inter? Non chi ha fatto, chi fa? È lui chi ferma il segno? Mourinho forse doveva informarsi meglio, perché io sono azionista dell'Inter e sono azionista anche della Saras, e quindi magari per un 3 milionesimo di parte glielo pago anch'io il suo stipendio. Non pensavo che una frase del genere meritasse una risposta del genere. Comunque, siccome lui è uno che si documenta molto, si dovrà documentare meglio. Una volgarità il signor Mourinho, assolutamente al di sotto di ogni sospetto. Strano, è strano, perché è una cosa veramente sorprendente. Alberto ha chiamato dalla provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo soltanto dire la mia, nel senso che secondo me la causa di questi risultati o non risultati sono esclusivamente la società, perché voglio dire, dopo il 2006 c'è la famiglia Agnelli, quindi è quasi del tutto scomparsa, cioè nel senso che non ha saputo trovare dei sostituti sia a livello dirigenziale, ma soprattutto anche a livello, nel senso di vendere la società a qualcuno che veramente poteva dare una svolta alla Juventus, perché loro non è che si sono fatti sentire più di tanto e quindi hanno lasciato così il povero Ferrara da solo. No, questo tanto solo Ferrara non mi sembra, non, a parte il fatto che c'è anche chi dice che gli faccia compagnia, seppur a distanza, Lippi, no, che comincia a fargliene un pochina perlomeno. Non mi pare che la società sia così poco presente, anzi le dirò che semmai io ho la sensazione opposta, che Allora, se parliamo di consulenza tecnica e di impronta tecnica, manca quella figura e torno a ripetere e a ricordare quello che ha detto prima Roberto Beccantini, quello è un conto, ma che la società sia così assente, no, la società semmai è troppo presente in certe occasioni, parla troppo, perché sembrava che, cioè, sabato sera, a parer mio, ha parlato un po' troppo dopo una partita vinta, per carità, soddisfazione, ma di una mediocrità abissale, e più persa dall'Inter che vinta dalla Juventus. E comunque in questi mesi ne abbiamo sentite di dichiarazioni della società che l'obiettivo era la finale di Champions, è il campionato, è questo e quell'altro. Non è che non ci sono, è che non si fanno sentire, forse si sono fatti sentire anche troppo, creando eccessive attese, io credo. Fermo restando che la tifoseria juventina le attese ce l'ha di suo, ce l'ha nel DNA. Caricandole ulteriormente non ha fatto, secondo me non è stata una buona strategia quella della società. Manolo ha chiamato da Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Io vorrei sapere una sua opinione a riguardo, con questo mio pensiero. Non pensa che lei, Ciro Ferrara, sia andato un po' in confusione negli ultimi mesi e l'apice massimo l'abbia toccato con questa partita? Ma io lo colgo con una piccola azione che hanno fatto, di sostituire, indipendentemente da Del Piero, la persona che non è in forma e quant'altro, ma il ruolo che ricopre Del Piero, chi per lui, mettendo Poulsen. Il primo tempo l'avevano massacrato il Bayern, no, all'inizio. Prego, non ho capito, chi ha massacrato chi nei primi 20 minuti? Il Bayern, aveva chiuso la Juve, la propria area. Ah, ecco, no, perché ho avuto una... Sì, prego. Mm-hmm. Mettendo Poulsen, la squadra, invece di andare avanti, ha continuato a indietreggiare indietro. Mm. Manolo, per carità, cambiare dei ruoli all'interno subito dal primo e secondo tempo significa aver sbagliato la formazione dall'inizio. Difatti, con Del Piero, cioè, ci voleva Poulsen fin dall'inizio, come diceva qualcun altro prima di me, ci voleva Poulsen certamente dall'inizio. Poi il dubbio era se lasciare fuori Camoranesi o Del Piero. Io avrei lasciato fuori Camoranesi in partenza. Perché è un periodo in cui non è in forma, è un giocatore che a me piace molto, ma è un periodo in cui ci azzecca poco, e avrei con non per giocare per il pareggio, intendiamoci, ma soprattutto pensando a che tipo di atteggiamento avrebbe avuto il Bayern, che il Bayern non poteva che giocare così ieri sera, no? Poi se l'è giocata un po' meglio di quello che si pensava, perché pur non avendo cambio di passo, pur non avendo agilità, pur essendo molto teutonica, no, davvero come squadra, pur essendo molto Sturmtruppe, no, avanzando a plotoni affiancati come sono abituati a fare loro quando non hanno giocatori di grande qualità, però voglio dire, questo tipo di partita avrebbero fatto, si sapeva ampiamente. Studiando le contromisure a questo tipo di partita, io credo che tre giocatori di fantasia alle spalle di Trezeguet fossero oggettivamente troppi, quindi Poulsen per me ci voleva dall'inizio, semmai. Dunque, da Roma, Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Prima una breve considerazione su Mourinho. Secondo me è un gran maleducato, è da due anni che si comporta così, e mi dispiace dirlo, ma è la categoria dei giornalisti che sbaglia a farsi trattare in questo modo, e secondo me si dovrebbe quantomeno far sentire qualcuno con la società. Non è possibile che una persona sia così strafottente e così maleducata nei confronti di una persona. Io non so dell'Inter, però che sia così maleducato nei confronti di una persona come Sandro Mazzola, che ha rappresentato la storia dell'Inter, mi sembra veramente l'ultima chicca che ha aggiunto alle sue al suo palmarès. Sì, primo. Secondo, io, in considerazione di quello che sta accadendo alla Juventus, penso che solamente una, poi tutti i nodi vengono al pettine. Secondo me è sempre stata sopravvalutata. Secondo me Corvino è uno molto abile, perché oltre ad averla incartata quest'anno alla Juventus con Melo, l'anno scorso per esempio l'aveva incartata a noi della Roma con Mutu a 20 milioni d'euro a un giocatore di 31 anni, poi fortunatamente è saltata quell'operazione, aggiungo io, però lì è veramente una grande abilità. Secondo me brancolano un po' nel buio, perché c'hanno i tifosi che li prestano molto e quindi fanno operazioni spot, però secondo me, cioè, non è un giocatore da 25 milioni d'euro. No, da 25 milioni d'euro no, Alessandro, in questo, questa stagione la sta sbagliando quasi completamente e sta reagendo male soprattutto alle sue stesse brutte prestazioni, perché anziché giocarsela con umiltà, voglio dire, anche in situazioni di estrema difficoltà come ieri, se ne deve uscire con questi colpi di tacco che secondo me sono una brutta spia di una reazione caratteriale sbagliata, ma parlo tecnicamente, non parlo emotivamente. Però secondo me la sola vera è l'altra, se tra Diego e Melo, in prospettiva perlomeno, perché comunque io Melo lo vedo giocare titolare nel Brasile. È vero che i due centrali di centrocampo brasiliani, che in passato sono stati anche dei fuoriclasse, ricordo gente come Didi, ricordo Gerson, ricordo giocatori straordinari, però ricordo anche giocatori molto, molto più mediocri, no? Ma di grande, ricordo Dunga per dirne uno, però di grande rendimento, di grande sostanza. Io credo che se uno fa il centrale di centrocampo nel Brasile, proprio sta gran pipa non può essere, a parer mio, e infatti quando gioca nel Brasile non lo è. Allora io non so se... Non credo sia la Juventus che lo fa rendere male, credo che ci sia qualcosa tatticamente, c'è qualcosa che non torna evidentemente nei rapporti, nella collocazione, no? c'è qualcosa che non va, ma che sto Felipe, che sia costato caro è indiscutibile, troppo caro altrettanto, che sia proprio la sola vera del mercato, secondo me le sole vere sono due, e sono le altre due, Diego e Cannavaro, per ora, poi e soprattutto visti in prospettiva. Poi parlasi invece che non sia così. Da Pescara, Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo salutarla e volevo, riallacciandomi alle ultime sue definizioni di sola per Diego, ricordo che io comprai uno speciale sulla Gazzetta, l'inserto della Gazzetta, uscito forse probabilmente 6 o 7 anni fa, dove già si parlava di Diego e di Robinho che facevano faville, no? Così come poi Diego anche in altri campionati che noi per provincialismo continuiamo a definire campionati inferiori a quello italiano, che sono quello portoghese e quello tedesco, però ha sempre fatto molto bene. Io credo semplicemente questo, che poi era il mio vero motivo di intervento, cioè che il Milan e la Juventus hanno voluto rifondare, no, un ciclo in qualche maniera, hanno voluto in qualche maniera riniziare un ciclo. Credo che il Milan si sia affidato tra i due allenatori inesperti, comunque ad un allenatore che è un uomo internazionale, multilingue, che soprattutto conosce il calcio, cioè lui conosce la tattica. Beh Giuseppe, però non mi può dire che Ferrara non conosce il calcio. Ferrara ha fatto una grande carriera, nel Napoli prima, nella Juventus poi, ha fatto qualche modesta esperienza da allenatore prima, sia pure di squadre giovanili, di rincalzi, di gestione insieme a Lippi, ma non mi può dire adesso che Ferrara sia un dilettante allo sbaraglio. Può darsi che abbia patito il salto, ma era la stessa incognita in fondo che riguardava Leonardo. Io credo che Leonardo operi, al di là del giudizio sulle persone, credo che Leonardo operi anche in un habitat più facile, ho l'impressione, più professionale, più collaudato, più in cui ci sono meccanismi identitari più forti di quanto non siano nella Juventus di oggi. Poi sono sensazioni e valgono le sue come valgono le mie o quelle di chissà chi. Non so quanto sia popolare in questi momenti presso i tifosi della Juve, ma sentiamo il presidente Blanc. Una grande delusione, ma per forza dobbiamo andare avanti, il calcio è così, il Bayern ha giocato secondo me la più bella partita di questa stagione, noi abbiamo giocato male, quindi alla fine ha vinto il Milan in campo stasera. Capiamo bene la delusione, avevamo obiettivi ovviamente più alti che uscire stasera dalla competizione, quindi capiamo la delusione, ma direi anche la forza di una squadra si vede a come i tifosi sono vicino alla squadra in momenti di difficoltà, non solo quando si vince ma anche in serata difficile come quella di stasera. Il progetto è forte, il progetto va avanti, ovviamente abbiamo previsto di andare oltre questo passaggio, ma ovviamente cambia poco, andiamo avanti sulla stessa linea. E questo era il presidente della Juventus, Jean-Claude Blanc. È il momento di del ripasso di storia. Il 9 dicembre di che anno ce lo fa scoprire Nicola Filippone. Sembra ieri. 9 dicembre 1990. Per il secondo anno consecutivo, il Milan si aggiudica a Tokyo la Coppa Intercontinentale, stavolta infliggendo un netto 3-0 ai paraguayani dell'Olimpia di Asunción. Un successo che porta le firme di due centrocampisti, l'olandese Frank Rijkaard, autore di una doppietta, e Giovanni Stroppa, prodotto del vivaio rossonero. L'Intercontinentale del 90 è l'ottavo e ultimo successo della gestione Sacchi. Con l'ex allenatore del Parma, il Milan ha conquistato, tra l'88 e il 90, uno scudetto, due coppe dei campioni, due intercontinentali, due supercoppe europee e una supercoppa italiana. Tocca ad Andrea, chiamato da Udine. Buongiorno. Sì, buongiorno, grazie, Garantini. Ho sentito le parole di Blanc adesso, già sono disperato, ho detto andiamo avanti così, siamo a posto. Comunque niente, io volevo semplicemente dire due cose che in parte voi avete già detto, che la Juve è la squadra dei cocchi, troppi cocchi di Lippi, troppi giocatori ormai finiti. Penso anche che se dovevamo aspettare un anno di transizione per l'arrivo di Lippi il prossimo anno, potevamo far meno di spendere i soldi e tenerci la squadra che avevamo l'anno scorso, che probabilmente secondi o terzi saremmo arrivati lo stesso. Terzo punto, spero che Lippi firmi per altri due anni la nazionale, perché secondo me questo è un segno di che la società proprio non ha idea di dove sta andando e ritorna, invece di pensare al futuro, ritorna al passato. E niente, mi fermo qua perché oggi non ho tante altre cose da aggiungere. L'ultima cosa che volevo dire è che ho letto qualche settimana fa un articolo di Deschamps che diceva praticamente era imminente il rientro di Del Piero, diceva Del Piero è sempre stato un problema. Secondo me questo è vero, Del Piero ormai è un giocatore che può giocare degli scampoli di partita, e Diego lo si è comprato, adesso lo giudicheremo com'è o come non è nell'arco del campionato, però lo si deve far giocare, lasciargli il suo ruolo mezza punta, e Del Piero ormai si deve rassegnare, anche se ha fatto la storia della Juventus. Prima o poi, insomma, l'età passa per tutti, di conseguenza niente da fare. Sì, ma grazie a lei, Andrea. Ma questa è una legge della vita, prima ancora che del calcio, no? Cioè, sta succedendo lo stesso a Madrid, a Raul. Ieri vedevo, ma anche in campionato, domenica e sabato scorso, vedevo l'espressione di Raul in panchina, non è delle più allegre, no? È indiscutibile. Tenga conto che Raul è oggettivamente in condizioni migliori del Piero, a occhio, e c'è anche due anni in meno, o due anni e mezzo in meno addirittura, due anni. Quindi comunque due anni a quell'età, cioè averne 33 compiuti o averne 35 compiuti, un po' di differenza la fa. Però il tempo passa ed è giusto che una società che ha speso 50 milioni per due giocatori, è giusto che su quelli insista, semmai, e provi a insistere, provi a battere il chiodo fino a quando c'è margine, insomma, di speranza. Questa è la logica, è indubbio. Carlo ha chiamato da Pavia, buongiorno. Buongiorno, niente, io sono un tifoso milanista, ho visto il Milan ieri sera e onestamente mi ha deluso, però anche per colpa di Leonardo, perché Leonardo mi sembra che stia facendo giocare sempre gli stessi giocatori. Però volevo fare un appunto un po' anche da critico, perché il Milan nelle ultime giornate ha fatto delle buone partite e dei buoni risultati soprattutto. Addirittura i giornali lunedì parlavano del Milan che è la squadra anti-Inter, che io pur da milanista riconosco che quest'anno non siamo alla testa dell'Inter, e la partita di ieri sera lo dimostra. Però in compenso la partita di sabato sera dimostra, sì, che neanche l'Inter ha questa grande altezza, No, parlavo di Dio, ma sabato secondo me quella di ieri sera dimostra che la Juventus non è che sia sul cervino, no? Ma ho paura che in Italia siamo a un livello più basso degli altri. Ecco, allora su questo ho paura che siamo d'accordo, siamo tristemente d'accordo tutti, infatti. Perché sì, il Milan sabato ha giocato bene con la Sampdoria, però la Sampdoria praticamente non ha giocato, io ero San Siro, per l'amor di Dio. Beh, insomma, c'è anche il merito di bucarli dopo 50 secondi, e questo è indubbiamente un merito. È vero che la Sampdoria ha appena preso tre gol anche dal Genoa, è vero che in questo momento battere la Sampdoria non è una grande impresa, ma è vero anche che se la pratica la chiudi dopo un minuto, poi tutto diventa facile e per gli altri diventa tutto difficile in condizioni normali, impossibile in un momento in cui la squadra sta andando come in questo momento. Bene, siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. Stasera tocca, come sapete, alla Fiorentina, a Liverpool, e questa è una partita di grande prestigio indubbiamente, ma di nessuna rilevanza di classifica, visto che il Lione e la Fiorentina in quel girone si sono già qualificati. Grazie a Rudy in regia, a Franco Piantanida con Flavio Suardi in redazione, e buon pomeriggio a tutti.